Il Terzo Anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Iaia Forte legge L'isola di Arturo, di Elsa Morante. Tutte queste scene avevano finito con l'innervosire il fratellastro, che si mise a gridare disperatamente. Nunziata, per farlo contento, gli porse il petto, e l'altra, mentre lei allattava, rimase zitta per qualche istante. Poi, d'improvviso, guardando la figlia con occhi d'amara passione, ruppe in singhiozzi e uscì sul corridoio con le braccia levate fra nuove invettive contro mio padre. Io, pur senza darle alcuna importanza, indolentemente, le mani in tasca, mi spinsi allora sui suoi passi per tenerla d'occhio da vicino. Poteva infatti capitare che, rabbiosa com'era contro mio padre e non potendo sfogarsi contro di lui in persona, colei andasse, per esempio, a manomettere i suoi tesori, la maschera subacquea, il cannocchiale, il fucile da pesca, che egli aveva lasciato a casa partendo, e li riducesse in rovina. O che magari nel suo furore andasse a fare scempio dei miei scritti, delle mie poesie. Ma per sua fortuna essa non osò tanto. Si contentava di andare intorno come un'orsa inferocita, sguardando i muri con i suoi occhi lacrimosi. «E questo, commentava, sarebbe il famoso castello, questa grotta! Assassino delinquente che m'ha preso con l'inganno! A sentirlo era un riccone o un milionario con il suo castello! Ma a me questa mi pare una grotta, proprio una grotta!» A simili parole Nunz, che si era fatta sulla soglia col guaglione al petto, esclamò, superba del suo castello: «Ah, mamma, che dite? Adesso poi non fatevi sentire a dire che questa sarebbe una grotta, che è un castello di valore anche per l'antichità e piace a tutti quanti!» Invece io, da parte mia, riguardando incuriosito le nostre pareti sporche e rotte, con le tappezzerie che pendevano come stracci e il pavimento che pareva un terreno pieno di buche, riconobbi fra me che, in realtà, il paragone con la grotta poteva andare. Una grotta. Oppure un'enorme baracca. Bisogna notare che le grotte e le baracche, nel mio concetto, erano luoghi assai seducenti, e in conseguenza confesso che pur nel mezzo di un simile dramma mi rallegrai nell'intimo per quella nostra interessante abitazione. Con la sua ultima frase, involontariamente, Nunziata aveva provocato la madre a un argomento fatale. Come udì le parole «piace a tutti», quella si rivoltò verso di lei con un'espressione fra rabbiosa e impietosita. «Ah, Nunziata non contrasta a mammata!» esclamò. «Che mammata è qui per difendere il sangue suo! È bella assai, questa caverna! Che mammata invece si vergogna d'averti mandato, per quanto è brutta! E nessuna famiglia qua intorno ci vorrebbe stare! Tanta piace, piace ai diavoli! Ecco a chi piace, che è piena di diavoli! Ah, voi, pazienza mia, aiutatemi a non parlare troppo!» soggiunse levando gli occhi al cielo e poi coprendosi il volto con le mani. Ma di lì a poco mostrò di nuovo il volto con una diversa espressione, fosca e insieme sagace, come se dietro le parole che stava per dire volesse intendere poi anche, per conto suo, chissà quali altri misteriosi imbrogli, e avanzando verso di noi dal fondo del corridoio, a voce bassa e circospetta, incominciò. «Tu, Nunziata, lo sai, per me io a certe cose ci credo e non ci credo. Non dico che non siano vere, senza dubbio sono verità, solo che io non sempre ci credo. Però qua, tu pure lo devi sapere quello che vanno dicendo giù in paese tutte le femmine, che questa casa è maledetta, è piena di diavoli. Si tratta di spiriti infami, che appena vedono una femmina si svegliano correndo da tutte le parti e si riuniscono. E presto o tardi le danno guai, perché qua dentro non ce la vogliono. E lo sposo tuo, sai che mi hanno detto? Che in mezzo a tanti spiriti d'inferno, lui si trova contento come Satana. E anzi, dicono certuni, porta qua le mogli apposta per contrariare quei diavoli, perché lui più loro s'arrabbia e più si diverte. Ma tu adesso, nenna mia, devi sentire a mamma che in questa casa non ti ci vuole più lasciare». E in così dire, colei riprese a singhiozzare più dirottamente di prima. Qua io decisi fosse tempo di intervenire. «Va!» dissi con disprezzo e alterigia, rivolto alla madre denunziata. Quando starai zitta? Tu mi fai ridere e io nemmeno me ne curo di spiegarti certe verità perché non capiresti niente. Però tutte queste femmine di qua, se credono ai diavoli, farebbero meglio a piantarla allora di venire sempre in visita. Fanno tante storie, ma poi ogni giorno rieccole, una appresso all'altra ci vengono a casa nostra. Gli occhi di Nunziata si posarono su di me, commossi e impetuosi, come per ringraziarmi della mia alleanza, e come se una tale alleanza l'accendesse alla riscossa suprema. «Ci vengono già! A casa nostra!» rinforzò nel suo modo più sontuoso, gran signora anche nel pianto. «Ci vengono! E bevono pure il caffè!» Presente, o homem na retoma de vidro. São raros instantes de alívio e deleite. Ele descobre o véu que esconde o desconhecido. O desconhecido. E é como uma tomada à distância numa grande angular. É como se nunca tivesse existido dúvida. Ele guardar, mas a razão prevalece, impõe seus limites, e ele se permite esquecer de lembrar, esquecer de lembrar. É como se passasse a vida inteira eternizando a miragem, como um capuz negro que cega o falcão selvagem, o falcão selvagem. Se na cabeça do extinte a repressão. Diz aí, o que é que tem no sótão? O que é que tem no sótão? O que é que tem no sótão? Se na cabeça do homem tem um porão, onde mora extinte a repressão. E diz aí, o que é que tem no sótão? O que é que tem no sótão? O que é que tem no sótão? O que é que tem no sótão? O que é que tem no sótão? O que é que tem no sótão? La nostra parente si trattenne presso di noi 4 o 5 giorni, coricandosi la sera nella stessa camera di Nunziata dove aveva trasportato la brandina di Silvestro. Fin da principio, però, dovette convincersi che Nunz era assolutamente decisa a non dividersi da mio padre e a non lasciare casa nostra. Su questo punto, alla madre non restò altro da fare che mettersi l'anima in pace. E così, rassegnata al destino, ritornò a Napoli, dove l'aspettava l'altra sua figlia. Nei giorni che passò da noi, essa, dopo quell'inizio così drammatico, si mostrò più trattabile e anche amena. Trascorreva ore ed ore seduta nella stanza di Nunziata, a conversare assieme a lei su una quantità di persone e fatti napoletani. E Nunz, che con le donne strane non era mai molto loquace, con sua madre invece si abbandonava in grande animazione a discorrere. Riandava volentieri alla propria vita di ragazza e in varie occasioni riparlava anche di Wilhelm, ma se la madre accennava qualche frase contro di lui, subito Nunziata si ombrava, ritraendosi in se stessa. Pareva diventata simile a una pianta sensitiva per tutto ciò che poteva suonare offesa a lui. Tuttavia, la nostra ospite non poteva fare a meno di sfogare ogni tanto la propria amarezza contro mio padre, e non osando d'insistere su questo soggetto con Nunziata, talvolta finì a sfogarsi perfino con me. Io, certo, non le davo molta soddisfazione. Il massimo segno di attenzione che le concedevo poteva essere una smorfia non curante o qualche impaziente brontolio. Però, sebbene controvoglia, la stavo a sentire. tanto ero assetato di udir parlare di lui. Povera nunziatella mia, non meritava di sposarsi con questo destino. Che a una femmina quando si marita non basta di essere maritata. Per una femminella giovane maritata ci vuole pure qualche altra soddisfazione. E la soddisfazione di essere tenuta vicino al cuore dal proprio marito, con delle belle maniere d'onore, di sentimento, e complimentata con delle buone parole, e carezze, e bacetti. Ah, che per la simpatia delle parole e dei bacetti pure le bastonate del marito sembrano perle orientali, e anche quando fa freddo e piove pare che dentro la casa ci sia un grande impianto di riscaldamento. Per quella simpatia, basta! Ma un marito che non mette questo zucchero nel caffè la fa sfigurare la moglie sua, perché una moglie non si tratta come una femmina di mala casa che ci si butta sopra per quei 2 minuti, poi ci si rivolta e buonasera. Violante, tu puoi dirlo a voce alta che Raffaele tuo marito, pure se ti ha fatto mangiare veleno, per quella simpatia là può essere morto con la coscienza dei santi, che lui la moglie se la teneva come una pupata e in quello non m'ha fatto sfigurare mai. Invece la mia povera nunziatella, chi me l'avrebbe detto che doveva maritarsi per questa vergogna? Mai qualche bella paroletta di complimento, mai una carezza, mai un bacetto. Trattata come una femmina di mala casa. Pensare, una così bella figlia, con quella bocca di riso, che la gente solo a salutarsi con lei si innamorava, e i guaglioni della strada, quando lei passava, vedendo la sua testa tutta a boccoli, si mettevano a cantare «Anella, anella». La madre affermava questi grandi successi di Nunziata con tale enfasi e convinzione che, per un istante, io quasi mi inducevo a considerare veramente Nunziata come una specie di bellissima diva, e la vedevo incedere per le vie di Napoli salutata da tutto il popolo, mentre una folla di guaglioni innamorati, facendo ala al suo passaggio, cantava serenate in suo onore su mandolini e chitarre. Thank you. Mio padre ricomparve dopo Natale, quando Carmine e Arturo aveva ormai più di un mese. Capitando inaspettato, egli trovò in casa tre o quattro donne amiche di Nunz venute a visitarla. C'era da supporre che dovesse sorprendersi per simile novità, ma invece non ebbe nulla a ridire sulla presenza di quelle donne e parve notarla a malapena. Carmine e Arturo, sebbene non lo conoscesse né lo avesse mai visto prima, lo accolse al suo arrivo con risa festanti, più che altro, credo, perché avendo imparato da poco a ridere, rideva ad ogni pretesto, credendo di fare chissà che gran cosa. Ma egli non si curò neppure di prenderlo in braccio per poter apprezzare il suo peso, secondo le incitazioni premurose delle amiche di Nunziata, e mentre esse, in coro, gli magnificavano quel nuovo figlio, lui gli accordò solo un'attenzione opaca e distratta, con l'aria di un ragazzo forastico e cresciuto fuori dalla famiglia, a cui le sorelle minori mostrassero la propria bambola. Questo suo comportamento col guaglione mi consolò un poco, giacché mi ero aspettato nuovi dispiaceri da un incontro fra i due, e per una ragione soprattutto, che Carmine e Arturo era biondo, ma per fortuna invece nemmeno questa notevole specialità del fratellastro non parve meritare nessuna considerazione particolare da parte di mio padre. Fu, purtroppo, l'unica soddisfazione che io ebbi dal suo ritorno. Difatti, egli stavolta era sbarcato sull'isola con un umore così assorto e tetro da disinteressarsi non solo di Carmine, ma anche del resto della famiglia e di qualsiasi altra cosa. Sembrava straniato da tutti gli oggetti intorno, come se nemmeno li riconoscesse, e lui stesso, se ripensavo a com'era quando l'avevo salutato all'ultima sua partenza il mese di agosto, mi appareva irriconoscibile. Una specie di maschera disanimata, impietrita come la morte, era scesa sulla sua faccia. A cena non toccò quasi cibo e dopo si sedette presso il calore delle braci senza dire una parola. Accovacciato là, come un animale, con il suo fazzolettino annodato al collo, sembrava assiderato e disperso. Si capiva che un pensiero unico, ininterrotto e inscrutabile per noi, gli occupava la mente senza rimedio. Il suo volto era fisso, terreo, ed ogni tanto traeva dei faticosi e lunghi respiri, come se l'aria gli mancasse. Talora un'ombra appassionata e inesprimibile, piena di tristezza, gli si affacciava agli occhi, ammorbidendo il suo orgoglio. Ma lui subito si nascondeva gli occhi con i pugni, come se fosse geloso di quell'ombra e ci stimasse indegni di vederla passare. Quali eventi straordinari, dopo la sua partenza dell'ultima estate, lo avevano colpito riducendolo a questo martirio? Qual era il misterioso pensiero, sempre lo stesso, che da mesi non gli dava riposo mai? Un giorno, attraversando il corridoio, lo scorsi dall'uscio semiaperto che singhiozzava in maniera orribile, mordendo i ferri del letto. Mi allontanai veloce in punta di piedi, giacché temevo di offenderlo a fargli conoscere che lo avevo visto mentre singhiozzava peggio di una donna. Più tardi ho dovuto ripensare molto a queste cose, ma in quei primi mesi del fatale anno esse mi si facevano dimenticare subito, passando nella loro astruseria come misteri secondari. Vedevo mio padre partire, ritornare, come si vede un fantasma, perché lui, a quell'epoca, per me, non valeva assai di più di un fantasma. I mali di Wilhelm Gerace erano diventati secondari per me. Ero troppo incatenato dai miei propri mali per interessarmi ai suoi. Il mio personaggio principale non era più Wilhelm Gerace. Ormai ciò era sicuro, o almeno mi pareva. Thank you. ho scritto i miei mali, ma avrei dovuto scrivere piuttosto il mio male, perché in realtà il male che mi aveva assalito da qualche tempo era uno e gli si poteva dare solo un nome: gelosia. In altra occasione avevo scacciato come una perfida calunnia il sospetto insinuato da qualcuno che io fossi geloso, ma stavolta dovevo arrendermi all'evidenza. Naturalmente, piuttosto che confessarlo in faccia agli altri, sarei morto, ma con me stesso non potevo negarlo. Mi ero ammalato di gelosia per causa di un rivale. Qua ora, sul punto di dire chi fosse il mio rivale, non so se più me ne vergogno o più ne rido. Succedeva questo. Carmine Arturo, il mio fratellastro, che i primi giorni pareva così brutto, col passare delle settimane e dei mesi andava rivelandosi invece bello, più bello di me, temo. I suoi capelli non solo erano biondi, ma anche ricci, e gli si disponevano naturalmente a ciuffetti sulla testa in una maniera che imitava alla perfezione una coroncina d'oro. Ciò gli dava un'aria di valore e di aristocrazia, quasi che gli si dovesse un titolo come altezza o qualcosa di simile, in grazia e merito dei suoi boccoli. Quanto agli occhi, erano neri morati, proprio napoletani, ma tutto intorno all'iride erano intrisi di un azzurro carico, incantato, così che i suoi sguardi apparivano di un colore nero azzurro. Di carnagione era chiaro e tutto florido e tondo. I suoi piedi e le sue mani, pur nella loro piccolezza, erano ben fatti, con le dita affusolate, con intorno ai polsi e ugualmente alle caviglie delle specie di braccialettini. A detta delle donne amiche di Nunziata, questi cerchietti naturali che gli aveva sulla carne erano un segno certo che era nato con la fortuna. E mentre le amiche di Nunz, per riaffermare soddisfatte questo oracolo eccelso, contavano e ricontavano i suoi braccialetti, lui stava fermo, guardandole con una certa serietà, come se capisse che là si trattava del suo destino. Pareva convinto che quelle femmine fossero una razza di stupende fate, perché erano amiche di Nunziata, e rideva, riconoscendole al rivederle, quasi bramoso di volare, si protendeva dalle braccia di lei verso di loro. Ma se, per qualche motivo, lei doveva allontanarsi, lasciandolo anche per un solo minuto, prorompeva subito in un pianto disperato, come se dal trionfo più splendido si fosse ridotto ad uno straccio, e si dibatteva fra le braccia altrui, in un modo misero e barbarico, che sembrava intendere «Per me oramai tanto vale cascare in terra e morire». Difatti, l'unica vera bellezza per lui era Nunziata. Era la presenza di questa bellezza unica che, simile ad un'incantatrice, rendeva agli occhi suoi tutti gli altri, anche i brutti, belli come santi. Così che egli voleva bene al mondo intero, facendo con la sua civetteria, che era grande, molte conquiste. Ma anche i suoi preferiti, in fondo, per lui contavano poco o nulla. Era lei la sua passione, e più passavano le settimane, i mesi, e più le si affezionava. E lei lo ricambiava. Così io vedevo un altro possedere quella famosa felicità da me sempre rimpianta e non avuta mai. Ripensavo a quanto mi ero offeso il giorno che Nunz mi aveva proposto di chiamarla ma, e tuttora riconoscevo di aver avuto ragione a offendermi. Però non mi sembrava giusto che, mentre io non avevo una madre, lei invece avesse un figlio. Ma la mia invidia più intollerabile non l'ho ancora detta. Era questa, che ella gli dava dei baci, troppi baci. Non sapevo che ci si potesse dare tanti baci al mondo, e pensare che io non ne avevo dati né ricevuti mai. Guardavo quei due che si baciavano come si guarderebbe da una barca solitaria nel mare una terra inapprodabile, misteriosa, incantata, piena di foglie e di fiori. Essa, a volte, si abbandonava con lui agli stessi giochi pazzi che usano gli animali piccoli con i loro fratelli, afferrandolo, stringendolo e rivoltandolo, ma senza mai fargli il minimo male, e tutto finiva in innumerevoli baci. Gli diceva «Tengo fame, ti mangio», fingendo una ferocia di tigre, e invece lo baciava. E al vedere la sua bocca graziosa che si sporgeva a quei puri, beati bacetti, Io mi ripetevo che è un'infamia questo mondo dove qualcuno ha tanto e qualcun altro nulla. E mi sentivo pieno di invidia, di trasporti e di malinconia. Uscivo e mi pareva che tutti in terra non facessero che baciarsi. Il movimento del mare era un bacio che correva verso l'isola. Le pecore brucando baciavano il terreno. L'aria, in mezzo alle foglie e all'erba, era un lamento di baci. Perfino le nubi in cielo si baciavano. Fra la gente, là per le strade, non c'era persona che non conoscesse questo sapore. Le donnette, i pescatori, gli straccioni, i ragazzi. Solo io non lo conoscevo. E mi venne una tale nostalgia di provarlo che notte e giorno non pensavo quasi ad altro. Mi mettevo a baciare per prova magari la mia barca, o un'arancia che mangiavo, o il materasso su cui stavo disteso. Mi dicevo, anch'io un giorno o l'altro bacerò qualche persona umana. Ma chi sarà? Quando? Chi sceglierò la prima volta? E mi mettevo a pensare a diverse donne viste nell'isola, o a mio padre, o a qualche ideale futuro amico mio. Ma simili baci, al figurarmeli, mi parevano tutti insipidi, senza valore. Iaia Forte ha letto L'isola di Arturo, di Elsa Morante. Realizzazione tecnica di Lorenzo Grego, a cura di Fabiana Carubolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello, @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it.